Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ehi, Boots, cerchiamo di ricordarci dove l'abbiamo parcheggiato. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, chi è che avrebbe potuto dire questa frase? Ve lo spieghiamo fra poco, adesso sentiamo i titoli di Mebius. Da "guarda mamma, sono sulla luna" a "ehi ragazzi, non è di formaggio", continuano ad arrivare in redazione le vostre frasi per il concorso "Vinci un pezzetto di luna". Mancano poche ore alla conclusione. Voi cosa avreste detto mettendo piede sulla luna? Una rete di origine biologica può effettuare dei calcoli numerici ed emulare i circuiti digitali dei computer. È padovana l'elica di plasma che non perde energia. Riprodotto in laboratorio, un plasma da fusione a 15 milioni di gradi. Il contratto mondiale dell'acqua ha scritto a Obama una lettera e gliela consegnerà al G8 dell'Aquila il 18 luglio. L'acqua deve essere dichiarata un bene primario. Manufatti antichi di 6.000 anni rivivono in formato digitale. È un progetto del CNR e del Ministero degli Esteri che ha realizzato il Museo Virtuale dell'Iraq. 3 giorni dedicati alle stringhe, quelle della fisica teorica che va a caccia di una teoria unificante. Il convegno si è tenuto questa settimana a Roma. Era una frase che avrebbe potuto pronunciare il comandante Neil Armstrong 40 anni fa, appena sbarcati sulla Luna, e infatti di questo vogliamo parlarvi ora con Chiara Albicocco. Ciao Chiara, benvenuta qui nello studio. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo pieni di frasi che ci sono arrivate. Sì, ce ne sono arrivate davvero tante e di tutti i generi, devo dire. Va bene, ricordate quegli ultimi fatidici istanti, sentiamoli. Abbiamo il via per quell'allarme. Atterraggio autorizzato. Stiamo sollevando un po' di polvere. C'è un paio di grossi massi rotondeggianti. Vieni avanti, qui c'è un punto buono. Non male, ecco l'ombra. Ci stiamo atterrando. Tenetevi pronti per l'impatto. Pronti? Houston, qui base mare della tranquillità. Eagle atterrato. Ecco Federico, non potevamo che non iniziare con Walking on the Moon, proprio camminando sulla Luna, come farebbero i nostri ascoltatori che ci hanno inviato tantissime frasi. Riassumiamo in breve di che cosa si tratta. Allora, è partito un concorso indetto dalla rivista inglese di scienza New Scientist, una delle migliori e più importanti riviste di scienza internazionali. Questo concorso è molto semplice: che cosa avreste detto voi al posto di Neil Armstrong 40 anni fa, invece di dire la famosa frase "un piccolo passo per me e un grande passo per l'umanità"? Che cosa avreste detto voi? E allora noi abbiamo chiesto a New Scientist, e loro sono rimasti molto contenti, di coinvolgere anche gli ascoltatori della nostra trasmissione e della radio per fare la stessa cosa, inviarci frasi. Ne abbiamo ricevute e ne stiamo ricevendo tantissime. Ed è stato un grande successo. Ecco, diciamo che ci sono ancora poche ore per poter inviare alla nostra email moebius@radio24.it le vostre frasi. La scadenza è il 29 giugno e noi dobbiamo avere il tempo, insomma, di inviarle a New Scientist per la proclamazione del vincitore finale, che sarà il 18 di luglio. E che cosa si vince? Beh, non vi sembri strano, si vince certo un pezzetto di luna. Forse su questo è un po' difficile spiegare come mai c'è questa opportunità, è un pezzetto di 1,5 grammi. Andate al nostro sito, potete digitare Moebius Scienza in qualunque motore di ricerca e vi spieghiamo com'è che questa cosa è possibile, ma è assolutamente possibile. Sì, in realtà è un pezzettino di suolo lunare trovato nell'Oman. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, e candida come te, tintarella di luna, tintarella con la te. Le frasi che ci sono arrivate sono veramente tante, di tutti i generi. Ci sono quelle ovviamente che riprendono le frasi profetiche, come pronunciò il comandante Armstrong: una vita per un giorno, questo giorno per tutta la vita. Oppure delle frasi che ci parlano dell'umanità: oggi l'essere umano ha catturato il suo sogno, toccare la luna. Federico, ne hai qualcuna tu? Beh sì, un'altra frase aulica, e qui cito alcune che sono arrivate anche alla rivista inglese: per millenni l'umanità l'umanità ha sognato i cieli, oggi ci siamo svegliati. Però invece c'è tutto un altro filone che io definirei minimalista, ovvero in totale opposizione alla grandezza dell'evento. Che cosa avrebbe potuto dire Aldrin sbarcando? Permesso? Ecco, oppure forse mi sono liberato della suocera. Tremenda questa. Oppure non ricordo se ho chiuso il gas prima di partire. Veramente lancinante come frase. E questa che diciamo che qui al Sole 24 Ore ha anche un bel senso. Finalmente un posto dove non si paga il parcheggio. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Scusa Federico, da buoni italiani non potevamo dimenticare che cosa? La mamma. Tantissime sul tema la mamma. Sì, ma io sostengo che sono anche internazionali. Certo, la frase che è arrivata, guarda mamma, sono sulla luna, cioè una frase classica che probabilmente Aldrin ha effettivamente pensato. E la frase di Leonora, ciao mamma, sono arrivato uno. Ovviamente non mancano quelli che a questo allunaggio non credono, gli scettici, diciamo così. E quindi abbiamo hanno creduto ai miracoli, crederanno anche a questo di Maurizio, oppure stavolta l'abbiamo fatta grossa, non ci crederanno del signor Rillo. Ecco, forse quella più scettica di tutti è la seguente: Luna Chuck 41esima azione. E questa è molto hollywoodiana, secondo me è americana. Sì. Io ricordo che soltanto in quest'ultimo anno, insomma, da fine 2008 e questi primi sei mesi del 2009 negli Stati Uniti sono usciti circa una ventina di libri che ancora tirano fuori questa storia dell'allunaggio assolutamente falso, invece organizzato in un punto del deserto del Nevada, probabilmente. Vorrei non dimenticare quelle poetiche letterarie. Allora, abbiamo da Leopardi, mille cose sai tu, mille di scopri, andiamo fino a Dante, fatti non fumo a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Mi ributto un po' sul decisamente più prosaico, guardo un po' cosa bisogna fare per rendere interessante il proprio curriculum. Questa è molto carina. E poi su questo tema io non dimenticherei quelle con riferimenti a bisogni fisiologici. Ecco, devo dire che quelle hanno avuto un grandissimo successo, sì, ce ne sono arrivate parecchie. Ad esempio, quella di Andrea, speriamo di non schiacciare una cacca. E quella di Luigi, un passo per me e acc, meno male che porta fortuna. Ecco, c'è poi tutto il filone formaggio, che è molto presente in quello inglese, perché nella favolistica anglosassone l'idea che la luna sia fatta di formaggio è presente in molti casi, però c'è anche nelle nostre nelle nostre frasi. Sì, e quindi qualcuno ci tiene a precisare, ecco, la luna non è fatta di formaggio, la prima cosa che direbbe. Con Armstrong che dice, accidenti, ma allora non è di formaggio, no? Federico, gli ascoltatori sul sito www.moebiusonline.eu, all'interno della pagina che contiene tutte le informazioni per partecipare al concorso, ci sono anche le nostre frasi, quelle della redazione, che manderemo a New Scientist e insomma speriamo di vincere. Le frasi dovrebbero arrivarci preferibilmente in inglese anche in queste ultime ore, se no noi comunque le tradurremo, insomma faremo una cernita, manderemo le migliori e poi andiamo a vedere che cosa succede per vincere il concorso. Dopodiché noi continuiamo un po' oltre, insomma l'appuntamento è col 20 luglio, che è la data appunto fatidica dello sbarco, e noi, se volete mandarci frasi, mandatecele pure, magari troveremo qualche premio comunque da darvi. Allora scriveteci a moebius@radio24.it. Bene, basta con le pazze frasi lunari. Raggiungo via Skype Paola Rebusco a Boston per un argomento che però non è meno strano, ma è molto importante. Ha occupato la prima pagina dell'autorevolissima rivista di scienza Science. Ciao Paola, buonasera. Ciao, buonasera. Ci sentiamo sempre via Skype per parlare questa volta di... lo so che tu vuoi dirmi che l'Escherichia coli, il batterio, ha imparato a contare... È un tuo modo per affrontare la notizia. Comunque dai, incominciamo da qui, cosa vuol dire? Ma è proprio vero, ha imparato a contare, non ha imparato da sola, le hanno insegnato, però è in grado di contare degli eventi e di segnalarlo ai ricercatori. Un gruppo della Boston University, nel laboratorio del professor Collins, è riuscito effettivamente a modificare il genoma delle Escherichia coli, il solito batterio che viene sempre utilizzato in tanti esperimenti, certo, perché è facile da coltivare, manipolare e così via. Però questi medici, Harry Friedland e Timothy Liu, sono effettivamente riusciti a modificare il genoma in modo che l'Escherichia coli sia in grado di contare se ad esempio c'è un un certo elemento chimico che viene rilasciato nell'ambiente in cui si trova. Nelle cellule esistono già dei sistemi che usano la chimica come modalità di funzionamento, che sono molto precisi, che rilasciano cose con precisione, quindi queste cellule sono già delle piccole macchinette, no? Sì. Le cellule di per sé sono dei piccoli computer. Certo, esatto. Sono evoluti, i sistemi biologici naturali sono evoluti in modo da poter controllare delle attività complesse. Ecco, io ho dato un'occhiata all'articolo che tu mi suggerivi e effettivamente se entriamo nella spiegazione della cosa in senso stretto è difficilissima, però quello che tu ci dici è che c'è un modo per educare questa cellula di Escherichia coli a svolgere un conteggio. I dettagli sono un po' complessi, ho passato un'ora a parlare con l'autore principale della ricerca e sono ancora confusa. In realtà, quando c'è un segnale chimico, vengono attivati dei geni che producono determinate proteine. Sì. Quando l'Escherichia coli, in questo caso il nostro batterio, conta fino a 3 di questi eventi, allora viene rilasciata una proteina fluorescente che i ricercatori possono vedere e che quindi comunica che è stato contato il numero 3. Ho capito. Ma questa cosa mi pare che funzioni come sistema, come orologio che viene applicato in situazioni terapeutiche. Sì, una delle possibili applicazioni è quella di poter programmare degli organismi che vengano immessi all'interno del corpo umano. E si può programmare innanzitutto a rilasciare delle molecole di medicinali e poi, avendo la possibilità di contare, le si possono programmare all'autodistruzione. Cioè in modo che la loro funzione di rilascio del principio attivo della molecola medicinale termini quando vogliamo che termini. Sì, esattamente. Quello che vogliamo è che queste cellule immettano i medicinali necessari, ma non vogliamo che invadano il corpo umano, per cui dopo un certo numero di divisioni di celle, che grazie a questi contatori saranno in grado di contare, vogliamo che le cellule... Che il processo si arresti. Questo mi sembra effettivamente importante perché sappiamo che molte cure efficaci però si portano appresso degli effetti collaterali che vengono messi in conto perché c'è per esempio una certa tossicità della cura stessa, determinato dal fatto che comunque l'abbiamo messa dentro, forse qui riuscendo a fermare. Esattamente, questo qui è solo una delle possibili applicazioni. Questo campo di ricerca si chiama biologia sintetica, praticamente cerca di rispondere ai problemi biologici con un approccio ingegneristico. Quello che fanno in parole povere è tagliare e incollare delle componenti biomolecolari per costruire dei circuiti genetici. Cioè, così come gli ingegneri elettronici saldano le componenti elettroniche in un circuito, così gli ingegneri biomedici tagliano e incollano componenti molecolari. E il fatto di poter contare, diciamo, di avere un interruttore all'interno della cellula è un primo passo, ma è il primo passo che si vuole per poter effettivamente controllare un computer. Questo effettivamente potrebbe essere una rivoluzione nel campo delle strategie terapeutiche, insomma, lo si capisce. Sì. Strategie terapeutiche oppure anche nel campo ambientale o in ogni tipo di ricerca biologica. Grazie Paolo, alla prossima volta. Ciao. E ora siamo al nostro gioco, il quiz. Ecco la domanda. Avete presente quelle fotografie nelle quali vediamo degli uccelli che se ne stanno fermi su una gamba sola? Le cicogne, gli aironi, ma anche altri più piccoli. Come mai stanno fermi su una gamba sola? Prima risposta. Le gambe di questi uccelli sono molto più simili a dei bastoni, con delle ginocchia che in posizione retta sono come degli snodi metallici di un mobile. Questo per dire che possono stare su una gamba sola con uno sforzo minimo e per molto tempo e la cosa, insomma, è diventata un'abitudine. Ci scriverete bastoni. Seconda possibilità. Le gambe di questi uccelli sono l'unica zona del corpo non protetta dalle piume e quindi molto più sensibile al freddo, soprattutto per gli uccelli che vivono molto nell'acqua. alternando la gamba sulla quale poggiano e tenendo l'altra in mezzo al caldo, in mezzo alle piume, non rischiano di averle tutte e due congelate. Ci scriverete freddo. Terza e ultima possibilità, dai resti fossili di molti di questi uccelli, ovvero dai loro antenati vissuti milioni di anni fa, si è ricavato che nella preistoria questi animali avevano una zampa sola. Il comportamento quindi è rimasto nella memoria genetica anche quando poi di zampe se ne sono sviluppate due. Ci scriverete antenati. Dove si scrive? Beh, si scrive al solito numero di SMS 349-238-6666. E che cosa si vince? Si vince questo libro, Achille e la tartaruga, il paradosso del moto da Zenone ad Einstein, scritto da Joseph Mazur, edito da Il Saggiatore. In collaborazione con IBS.it. La fusione, l'energia da fusione, se riuscissimo a catturare, perché ormai è una caccia che dura da tempo, se riuscissimo a catturare questo obiettivo, certo grandi problemi sarebbero risolti. Una notizia buona oggi arriva da Padova e ce ne parla Maurizio Menis. Un passo avanti verso la fusione nucleare è arrivato da Padova. Un grammo di idrogeno, ricordiamolo, sottoposto a fusione produce milioni di volte più energia di quella che si produce bruciandolo. Perciò la fusione, come molti sanno, è la grande speranza del futuro per avere energia pulita e virtualmente illimitata. Attualmente c'è quindi una specie di competizione per sviluppare la tecnologia più adatta, ma la direzione in cui si è andati più avanti è decisamente una sola, il cosiddetto confinamento magnetico. Il punto qual è? È che per realizzare la fusione bisogna prendere un gas di idrogeno, portarlo a temperature elevatissime. Parliamo di decine o centinaia di milioni di gradi. In questo stato l'idrogeno è un plasma rovente e la difficoltà principale sta nel contenerlo, insomma nel tenerlo chiuso da qualche parte. Attenzione, ecco, chiariamo subito, non nel senso che può esplodere, perché anzi il problema è l'opposto, cioè mantenerlo acceso. Il contenimento del plasma infatti è un gioco di equilibri molto delicato. Appena qualcosa va storto, il plasma si disperde, si raffredda e la reazione si spegne. Insomma, è un po' come tenere in equilibrio una scopa sulla punta delle dita. Appena ci si allontana dall'equilibrio, la scopa cade. Ebbene, la notizia è che al consorzio RFX di Padova, dove si studiano i plasmi, anzi è un centro di eccellenza a livello mondiale, si sperimenta anche un particolare tipo di confinamento magnetico. Ce ne sono diversi tipi e questo è un dato importante per la nostra discussione. Ebbene, a Padova il gruppo guidato dal professor Piero Martin dell'Università di Padova e dalla dottoressa Maria Esther Pugliatti del CNR è riuscito a fare assumere a un plasma da fusione a 15 milioni di gradi una forma ad elica dotata di una sorta, diciamo, di equilibrio spontaneo. Insomma, qualcosa che renderebbe più facile il contenimento del plasma. Ci facciamo raccontare tutto da Francesco Gnesotto, che è direttore del consorzio RFX. Buonasera Gnesotto, in linea? Buonasera, sono in linea. Eccoci qua. Allora, dunque Gnesotto, potrebbe forse cominciare proprio a spiegarci molto in breve che cosa si intende per confinamento magnetico, che cos'è? Sì, il problema fondamentale del reattore a fusione è quello di mantenere i reagenti, che sono due isotopi dell'idrogeno e del tritio, confinati, cioè in un volume ben definito e separati dalle pareti che contengono la miscela. E uno dei modi per mantenere questo confinamento è tramite campi magnetici. I gas deuterio tritio sono, nel momento in cui vengono riscaldati, diventano plasmi e quindi diventano elettricamente conduttori. Le particelle cariche, immerse in un campo magnetico, anziché muoversi di moto disordinato a seconda della loro energia termica, si muovono lungo le linee di campo e quindi attraverso intensi campi magnetici si riesce a confinare queste particelle lontano dalle pareti. In particolare in una configurazione a toro, ovvero a ciambella, queste linee possono essere delle linee che girano attorno alla ciambella stessa e quindi chiudersi in modo da non intersecare mai le pareti del contenitore. Quindi abbiamo campi elettrici e campi magnetici che insieme fanno sì che il plasma assuma la forma che è esattamente quella della ciambella, che è infatti la forma della camera, chiamiamola, di combustione. Sì, per intenderci. Sì. Ecco, dunque, in Francia la comunità internazionale sta realizzando ITER, è il più grande esperimento di fusione nucleare, il primo soprattutto che dovrebbe riuscire a produrre per alcuni minuti più energia di quella che consuma. ITER è un tokamak. Voi state sviluppando all'RFX una tecnologia che diciamo è cugina, per così dire, del tokamak e prende il nome di reverse pinch. Ci spieghi qual è la differenza principale fra questi due parenti, abbiamo detto? Sì, attualmente, come lei ha accennato, il tokamak è di gran lunga la configurazione magnetica più promettente, ed è questo il motivo per cui ITER viene costruito in configurazione tokamak. Noi, tra l'altro, a Padova contribuiamo in maniera molto consistente alla realizzazione di ITER tramite lo sviluppo del sistema di riscaldamento principale di ITER, il cosiddetto iniettore di fasci di neutri. Però abbiamo da 30 anni qui in casa lo sviluppo di una configurazione cosiddetta alternativa. Si chiama reverse field pinch perché il campo magnetico viene rovesciato nella parte esterna del plasma rispetto alla direzione che il campo magnetico ha al centro, nel cuore del plasma. Il vantaggio di questa potenziale di questa configurazione reverse field pinch è di avere un campo magnetico di confinamento 10 o 100 volte più basso del campo necessario per confinare un tokamak, e questo comporterebbe, nel caso di un reattore realizzato con tecnologia RFP, un risparmio enorme sui magneti, che sono una parte consistente del costo del reattore, circa il 30%. Ok, quindi insomma un design diverso del campo magnetico consente di mantenerlo più basso, con tutti i vantaggi che lei ha detto. A prezzo, sì, ovviamente a fronte dei vantaggi sono anche degli svantaggi. Il campo magnetico più basso comporta, in maniera abbastanza ovvia, una riduzione della capacità di confinamento della configurazione, quindi una maggiore tendenza alle instabilità. Questo ci porta, direi, dritti alla scoperta che avete fatto. Di che cosa si tratta? Sì, il reverse pinch, come il tokamak, è una macchina che ha una configurazione, noi diciamo, assial simmetrica, cioè i magneti sono semplicemente dei magneti toroidali, di forma quindi a ciambella, e anche la camera di combustione è a forma di ciambella, certo. Quindi relativamente semplice da realizzare. Le configurazioni elicoidali vengono già realizzate da molto tempo in macchine che si chiamano Stellarator, che sono però caratterizzate dal fatto di richiedere dei magneti di forma molto complessa, quindi estremamente più difficili da costruire, estremamente più costosi. Ecco, la scoperta porta a dire che un plasma si può creare elicoidale anche all'interno di un sistema di magneti invece non elicoidali, cioè con questa forma toroidale, quindi a ciambella, che abbiamo detto. Sempre toroidali, e anche con una camera di combustione di forma toroidale, quindi molto semplice. Queste configurazioni elicoidali in una macchina asimmetrica sono state previste teoricamente, e negli ultimi anni noi abbiamo iniziato a produrle anche sperimentalmente. Il risultato che adesso ha portato alla pubblicazione di questo lavoro su Nature Physics comporta un isolamento termico molto migliore rispetto al precedente del plasma rispetto alla parete. Per dare un'idea con un numero, il plasma in configurazione elicoidale come lo teniamo adesso, riesce a essere mantenuto a una temperatura di 10 milioni di gradi, sì, ad una distanza di circa 20 centimetri dalla parete. Quindi in una distanza di 20 centimetri noi abbiamo un salto di temperatura, certo, di 10 milioni di gradi. Certo, ecco, questo, certo, dà un'idea della capacità di isolamento termico della configurazione. La perfezione non è di questo mondo, si usa dire spesso, e sostanzialmente ha ragione. L'affermazione è certamente vera, difficile contestarlo, anche in quei casi nei quali sembrerebbe che le cose si esprimano al meglio. Ora, uno di questi casi potrebbe sembrare quello delle articolazioni presenti negli animali, noi compresi. Pensate alle ginocchia e alle anche di un giocatore di basket che riesce a cambiare continuamente direzione e poi a sollevarsi in volo, quindi con una grande spinta, come fanno loro quando vanno a canestro e sembra che non vengano mai giù. È vero, le nostre articolazioni sono strumenti di una efficienza impressionante, però un punto debole ce l'hanno, e lo sappiamo tutti: le cartilagini che separano le ossa. L'anca è innestata sul bacino, per esempio, ma se non ci fosse una cartilagine posta come diaframma fra le due superfici ossee, addio mobilità, saremmo bloccati come dei massi, perché il più piccolo movimento sarebbe causa di fitte lancinanti. Le cartilagini funzionano, ma lo sappiamo, ad un certo punto si consumano e sono tutti fenomeni artritici che ben conosciamo. Sono guai. L'idea che possano essere costruite delle cartilagini artificiali è però nell'aria da tempo. Pensiero corretto. Le moderne scienze dei materiali stanno producendo, proprio nel campo degli artriti, fra l'altro, dei risultati sensazionali. Un gruppo di ricerca del Weizmann Institute, siamo in Israele, sta mettendo a punto una tecnica che dovrebbe dare ottimi risultati in quei casi dove si deve intervenire con arti artificiali. E da qui però la tecnica potrebbe anche diventare qualcosa da applicare sugli arti naturali. Si tratta di un sistema che prevede delle piccolissime spazzole, possiamo definirle così, e qui quando si dice piccolissime è veramente piccole, sono lunghe circa 60 nanometri, quindi siamo nella scala dei milionesimi di millimetro, e questo strato di spazzole è immerso in un canale dove si trova dell'acqua, è una guaina che fa parte dell'arto artificiale, collocata appunto dove c'è la superficie di contatto con l'altro osso. I primi esperimenti sono molto confortanti, a pressione di 5 megapascal, il pascal è l'unità di misura della pressione meccanica, la cartilagine artificiale risponde bene, e stiamo parlando, 5 megapascal, di pressioni che rarissimamente sono raggiunte da un corpo umano sotto sforzo. C'è un solo aspetto da verificare, la durata nel tempo, certo, perché le cartilagini naturali tendenzialmente lavorano bene per decenni. Con quelle artificiali bisogna ancora verificare questo dato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In un film abbastanza recente, Mr. Brooks, non sto a raccontarvelo nei dettagli, c'è una scena in cui il cattivo entra in un cimitero aprendo il cancello con una chiave, e di fianco a lui c'è un altro personaggio che gli dice: ma come mai hai la chiave? E lui dice: perché il cimitero è mio. Sì, in effetti il film si svolge negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti si può essere proprietari di cimiteri. E allora il compagno gli dice: beh, ma come mai hai preso un cimitero? E lui dice: bisogna sempre investire sulle cose delle quali la gente non può fare assolutamente a meno. I cimiteri, l'acqua vanno benissimo. Questa sera noi non parleremo di cimiteri, ma parleremo di acqua, e lo facciamo con Emilio Molinari. Buonasera Molinari. Buonasera a voi. Emilio Molinari è presidente del Comitato per l'Acqua Italiano, che fa parte della rete più grande di comitati a livello internazionale riuniti nel Contratto Mondiale dell'Acqua, che è una grande associazione presieduta da Danielle Mitterrand, che è la moglie dell'ex presidente francese, e dall'economista Riccardo Petrella. Allora, ho iniziato con questa battuta da un film, Molinari, l'acqua appunto è qualcosa sulla quale non bisognerebbe giocare, insomma, non è un oggetto su cui investire, è un bene assolutamente primario, no? Esattamente, è un bene primario, chiamerei addirittura un patrimonio dell'intera umanità, ed è un diritto umano, perché mentre la gran parte delle cose sono anche sostituibili, penso al petrolio, penso a molte fonti energetiche, penso che invece l'acqua e l'aria non siano sostituibili. La gente ha assolutamente bisogno, ma non solo la gente, tutti gli esseri viventi, di aria e di acqua per riprodursi su questo pianeta. Il 18 all'Aquila c'è il G8, e i comitati internazionali, a partire dal comitato italiano, vogliono mandare una lettera al presidente Obama. Leggo l'attacco di questa lettera. Signor Presidente, nei giorni del G8 lei giocherà un ruolo determinante, e pensiamo che questa sia un'occasione per porle una questione che riteniamo fondamentale per il mondo, l'acqua. Signor Presidente, la sua elezione ha suscitato nel mondo molte aspettative, è stato visto come un leader capace di dire al proprio paese e al mondo intero che dai terribili problemi del pianeta si esce solo tutti assieme. Volete presentare questa lettera a Obama, quindi, in un momento importante, insomma. Certo, l'occasione del G8 ci sembra pertinente, anche per uscire un po' dai soliti rituali che i movimenti mondiali hanno in queste occasioni, no? Che sono le manifestazioni, le proteste, oppure grandi seminari di proposte, ma che non arrivano, a mio giudizio, diciamo, nelle aule dove si riuniscono i potenti della terra. Con questo non è che vogliamo riconoscere ai potenti della terra chissà quale patente, però crediamo che Obama abbia segnato un cambiamento nel mondo. Primo perché li affronta questi problemi e secondo perché si dice parliamone, non diventa un conflitto immediato, ma diventa mettiamoli all'ordine del giorno. Ecco, noi pensiamo di fargliela arrivare, poi le forme con quale arriverà questa lettera le scopriremo. Le vedrete. C'è un paradosso perché esiste un Consiglio Mondiale dell'Acqua che però non considera l'acqua come un bene primario. Che cos'è questo Consiglio Mondiale? E questo è il paradosso, è un vero grande paradosso. L'acqua è l'unico elemento che non viene gestito da istituzioni internazionali legittime come le Nazioni Unite. Che ne so, per la fame nel mondo c'è la FAO, per i bambini c'è l'UNICEF, per le, certo, le opere d'arte c'è l'UNESCO. Per l'acqua non c'è, ma c'è questo Consiglio Mondiale dell'Acqua che è un organismo privato, non è un'istituzione legittima. Privato nel senso che è gestito direttamente da due grandi multinazionali dell'acqua, cioè che operano in tutto il mondo privatamente sui rubinetti dell'acqua, prendendoseli in carico. A qual quale però c'è una legittimazione di tutte le istituzioni internazionali, perché ogni 3 anni, quando si convoca il Forum Mondiale dell'Acqua, 150 governi ci vanno, lo riconoscono, le Nazioni Unite lo riconoscono come luogo adibito a discutere la linea politica dell'acqua e l'Unione Europea pure è presente. E questo è una grande contraddizione. La prima cosa quindi da chiedere è: riportiamo alla legittimità di un'istituzione la gestione della politica dell'acqua mondiale. E secondo, è possibile, qui sta la grande, a mio giudizio, crisi di civiltà anche, questo organismo per la 5ª volta a Istanbul, questo era riunito quest'anno, ha dichiarato in un documento che l'acqua non è un diritto umano, ma solo un bisogno umano, e che cambia tutto per noi. E voi questo problema volete porlo direttamente al presidente Obama? Esattamente, vogliamo dirle che l'acqua venga riportata sotto la gestione e la direzione politica delle Nazioni Unite e che l'acqua venga dichiarata finalmente un diritto umano universale. Grazie Molinari, buon lavoro. Grazie mille. Per la lettera Obama vi ricordo che è aperta una sottoscrizione di firme, potete andare al sito www.contrattoacqua.it. Cambiamo argomento. Se il sito internet di un museo è ben costruito, esso ci offre un'opportunità considerevole che prima della moderna multimedialità digitale non era possibile. Quale opportunità? Una visita virtuale alla raccolta del museo. Certo che dal vivo si ha di più, ma è anche vero che non è pensabile che tutti noi si possa visitare tutti i musei. Chiara Albicocco vi racconta del museo virtuale dell'Iraq. Il volto enigmatico della Dama di Uruk, una maschera di marmo capolavoro della civiltà sumerica, ci accoglie all'ingresso. E la musica che stiamo ascoltando in sottofondo è la stessa che ci accompagna. Ebbene, dove? Alla visita del Museo Archeologico dell'Iraq, il museo virtuale che potrete visitare ovunque vi troviate. E sì, perché basta collegarsi al sito www.virtualmuseumirac.cnr.it, dopo lo ripeteremo con calma, è possibile girovagare e curiosare per le 8 sale del Museo di Baghdad. Potrete girare, capovolgere tutti gli oggetti e i reperti esposti. Questo grazie al lavoro minuzioso di alcuni ricercatori dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR di Catania, su iniziativa e con il sostegno del Ministero degli Esteri. Ecco, a guidarci in questa visita virtuale radiofonica, qui con noi questa sera c'è il responsabile scientifico del progetto, l'archeologo catanese Massimo Cultraro. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora Cultraro, dicevo che in home page siamo accolti dal volto marmoreo di Uruk. Ecco, da lì si aprono le porte del museo virtuale che riproduce quello reale. Apriamo una parentesi, nel senso che il museo reale è stato ricostruito anche grazie al sostegno italiano. È per questo che il Ministero degli Esteri ha deciso di sostenere anche la realizzazione di questo museo virtuale. Torniamo al sito, si aprono le porte del museo e ci troviamo di fronte a una scelta. Che stanza visitare? Le 8 sale tematiche indicate dalle 8 porte rappresentano i principali momenti della civiltà mesopotamica, dalla preistoria fino alla sala islamica. Abbiamo mantenuto la sequenza cronologica da sinistra verso destra per apprezzare meglio le tappe tappe della trasformazione delle grandi civiltà umane. Sì, ecco, perché poi una volta entrando nella sala è possibile in realtà scegliere un oggetto, un reperto, e a quel punto osservarlo da vicino con le vostre ricostruzioni tridimensionali e saperne la storia attraverso approfondite didascalie. Sì, esattamente. L'utente ha a disposizione tre percorsi conoscitivi. Il primo rappresentato da una scheda tradizionale che contiene le principali informazioni sul contesto storico-archeologico del reperto. Il secondo livello di conoscenza è affidato alla ricostruzione in 3D, quindi l'utente, come diceva prima lei, può manipolare, girare, entrare dentro l'oggetto, avvicinarsi e apprezzarne così le particolarità e i dettagli stilistici. Infine il terzo percorso è quello affidato a un breve videoclip della durata di appena 3 minuti e che consente all'utente di approfondire aspetti legati all'oggetto che sta indagando. Devo dire che il sito è veramente ben fatto, molto curato e anche semplice da usare e fruibile da tutti, perché è gratuito, perché è online e poi perché è tradotto in quante lingue? È organizzato in 3 lingue, italiano, inglese e arabo. Ecco, quindi veramente fruibile da tutti. Ecco, lei, dicevamo, è responsabile scientifico di questo sito. Allora, vorrebbe spiegarci qual è la tecnologia, che tipo di studi veramente minuziosi avete fatto per realizzare un'opera così importante e di così grosso calibro? È la squadra di ricercatori che ho avuto il piacere, l'onore di coordinare, è costituita in prevalenza da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nelle diverse branche scientifiche che vanno dall'archeologia alla storia del Vicino Oriente, alla storia delle religioni, ma anche il grande contributo dato da tecnologi, tecnici informatici e soprattutto modellatori nel campo del virtuale, quella che è chiamata la realtà virtuale. Il procedimento che abbiamo adottato è stato quello di impiegare le più aggiornate tecnologie nel campo della valorizzazione e comunicazione dei beni culturali. Nello specifico, nel settore del virtuale, abbiamo proceduto attraverso un rigoroso lavoro filologico di documentazione grafica e fotografica dell'oggetto, creando una serie di pannelli sovrapposti che hanno consentito la creazione del prototipo da cui poi abbiamo sviluppato il modello 3D. Una serie di scansioni, diciamo così. Sono proprio delle scansioni, sì, delle scansioni per ottenere poi il rendering finale dell'oggetto. Poi abbiamo proceduto attraverso un software elaborato da un istituto nostro, il CNR di Pisa, a creare quanto più vicino al vero il sistema di colorazione dell'oggetto, perché ci siamo accorti che una delle pecche delle ricostruzioni virtuali è la non fedeltà dei colori riprodotti. E invece devo dire che visitando il vostro sito sembrerebbe proprio reale. Sì, esattamente. L'oggetto in molti casi, soprattutto lo può apprezzare nel 3D, l'oggetto virtuale si confonde con il reale. Il caso per esempio di questa pregevole testa in bronzo che è ospitata nella sala accadico e neosumerica, è una testa attribuita al grande Sargon, re di Akkad, quindi appartiene al 2002 avanti Cristo, è stata da molti confusa con una fotografia reale, invece no, si tratta di una realizzazione in 3D, un rendering poi colorato. Ecco, allora ci dà qualche idea di quali sono i pezzi di punta di questa collezione? Lei stessa menzionava la dama di Uruk, che ci dà il benvenuto. Che ci dà il benvenuto e che apre il viaggio virtuale verso le grandi civiltà dell'area mesopotamica. È uno dei pezzi pregevoli del Museo Reale di Baghdad, trafugato a seguito degli eventi dell'aprile del 2003 e ritrovato immediatamente dopo. È una delle prime sculture a tutto tondo che noi conosciamo nella storia dell'arte sumerica. Abbiamo altri pezzi di grande importanza e vorrei citare la testa in bronzo attribuita a Sargon di cui parlavo prima, e nella stessa sala accadica c'è una riproduzione in bronzo di un cosiddetto portastendardi, è una figura maschile piegata che reggeva un uno stendardo simbolo della città. Anche questa è una tra le più belle opere in bronzo datate alla fine del terzo millennio avanti Cristo, fino ad arrivare all'arte islamica, dove abbiamo collocato all'interno della stanza opere di grande interesse prodotte sotto il califfato abbasside nell'VIII e IX secolo dopo Cristo. Un cenotafio ligneo dell'XI secolo credo che sia uno dei pezzi più belli di questa collezione. Ecco, benissimo, allora invitiamo tutti, veramente chi non potesse andare ovviamente a Baghdad a visitare quello reale, a visitare il vostro sito, che io ripeterei con calma, l'indirizzo è www.virtualmuseum.cnr.it, ma anche su qualsiasi motore di ricerca mettendo museo virtuale Iraq è facilmente reperibile. Io la ringrazio e davvero grazie per questo servizio. Grazie a voi e buona visita virtuale e reale. Passiamo alla soluzione del quiz. Credo che questa volta abbiamo esagerato proprio tanto nel costruire una risposta falsa. La storia degli uccelli fossili che avevano una zampa sola è davvero una tremenda falsità, mentre invece quella delle gambe molto rigide, tanto che se ne può usare una sola, è falsa, ma diciamo più verosimile. La risposta giusta è quella che riguarda la protezione dal freddo. In questi uccelli usare una gamba e riscaldare l'altra e poi fare quindi rapidamente un cambio è una scelta efficiente. Bisogna tenere presente che gli uccelli devono prendere il volo, un'operazione che in molti di loro, per esempio gli aironi, richiede una certa spinta fornita da una corsa, seppur breve. Bene, per decollare quindi ci vogliono gambe funzionanti e non congelate. Continuiamo con la nostra trasmissione, la teoria delle stringhe. Probabilmente sarà giunta notizia anche a coloro che si interessano poco di scienza che questa teoria nulla c'entra con le calzature, ma mettiamola così, potrebbe diventare questa teoria le gambe, i piedi su cui poggiare una visione unificata dei fenomeni fisici, di tutti i fenomeni. Ce la si può fare? Sentiamo Barbara Gallavotti. Circa 40 anni fa nasce una delle più innovative e controverse teorie della fisica. Si chiama teoria delle stringhe, a volte viene anche detta teoria delle corde o delle brane. È difficile descriverla, anche perché per molti dei più noti fisici al mondo rimane comunque un mistero. Addirittura un parto fantasioso di menti geniali, da guardare però con sospetto. Qualcuno si è persino chiesto se la teoria delle stringhe sia scienza e non piuttosto una sorta di culto di tipo pitagorico in cui fisica e metafisica si intrecciano in maniera inestricabile. Insomma, di cosa parla questa teoria? Beh, nasce nell'ambito della fisica teorica e combina meccanica quantistica, relatività generale e teoria quantistica della gravità, in modo da descrivere un universo in cui gli elettroni, i quark e in generale tutte le più piccole particelle che compongono l'atomo sono rappresentate come impalpabili corde vibranti, dotate di una o più dimensioni. Oggi, dicevamo, la teoria delle stringhe ha diversi decenni alle spalle. Vi lavorano migliaia di ricercatori che hanno pubblicato migliaia di lavori. E a Roma, dal 22 al 26 giugno, si è svolto anche il più importante convegno internazionale del campo, organizzato dall'Università Tor Vergata e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Vi hanno partecipato i più importanti stringhisti del pianeta, tra cui i padri della teoria, Gabriele Veneziano e Edward Witten. Gli organizzatori hanno anche previsto degli incontri con il grande pubblico, al Planetario di Roma e all'Auditorium. Proprio al Planetario ha parlato Gabriele Veneziano, che è qui con noi. Buonasera. Buonasera. In primo luogo, può dirci perché questa teoria? Insomma, qual è il vantaggio di rappresentare le particelle che compongono gli atomi come stringhe oppure come corde? Beh, direi è soprattutto un vantaggio dal punto di vista dell'economia di pensiero, perché nelle teorie precedenti per ogni particella elementare si doveva introdurre in modo indipendente un certo oggetto chiamato un campo. Viceversa, nella teoria delle stringhe, tutte le particelle elementari si riducono ai modi di vibrazione di un unico oggetto, di un'unica stringa. Quindi un universo più semplice e, come avete detto voi, più elegante? In un certo senso sì, diciamo, consisterebbe solo di due tipi di cordicelle, una con delle estremità e un altro tipo di cordicelle chiuse come dei piccoli anellini. Queste cordicelle, vibrando in modo diverso, come potrebbero essere le corde di un violino, corrispondono a particelle diverse, appunto gli elettroni, i quark, il fotone, il gravitone. La grande critica che viene mossa alla vostra teoria deriva dal fatto che, nonostante l'enorme quantità di lavori che ormai sono stati fatti e che ovviamente testimoniano il fascino delle stringhe, finora la teoria non è riuscita a produrre nessuna previsione verificabile con un esperimento, cosa che è il requisito fondamentale che si richiede un'ipotesi perché possa essere definita scientifica. Qualcuno ha persino definito le stringhe non una teoria, ma un insieme di speranze che possa esistere una teoria. Sembra insomma che il vostro universo, quello che voi immaginate, sia qualcosa di bellissimo, privo però di relazioni con l'universo reale. Lei cosa risponde a questa obiezione? Beh, no, non sarei così pessimista sulla teoria. Il vero problema è che si tratta di una teoria molto complicata, molto complessa dal punto di vista matematico, e quindi è difficile risolverla, soprattutto risolverla nelle situazioni di interesse fisico. E quindi è quello l'ostacolo maggiore, perché altrimenti la teoria sarebbe in sé molto predittiva. Per esempio, a un certo livello di approssimazione, la teoria prevede l'esistenza di certe particelle che non sono osservate, e quindi se uno credesse veramente a quel livello di approssimazione della teoria potrebbe già invalidarla. Quindi diciamo che la teoria completa richiede, per essere sottoposta a prova sperimentale, la risoluzione di delle equazioni estremamente complesse, mentre le sue versioni parziali in qualche modo sono anche state messe alla prova, però sono state invalidate, e quindi si deduce che deve essere data un'interpretazione più ampia. Sì, se vogliamo dobbiamo spingere le nostre tecniche di calcolo al di là di quello attuale. È un po' come se si riuscisse solo a risolvere, non so, il problema del moto dei pianeti intorno al Sole nell'approssimazione in cui le orbite sono esattamente circolari e non delle ellissi. Ecco, un po' quello potrebbe essere il problema. Naturalmente non sono circolari, sono delle ellissi. Se uno conosce solo la soluzione circolare, direbbe la teoria di Newton è sbagliata perché le orbite dei pianeti non sono dei cerchi. Però sono alle porte o quasi in corso degli esperimenti che in qualche modo danno delle indicazioni utili e interessanti per la vostra teoria? Senz'altro, perché diciamo gli esperimenti, soprattutto al nuovo acceleratore del CERN, l'LHC, dovrebbero perlomeno mettere dei vincoli su questa teoria. Per esempio, la teoria delle stringhe prevede che ci siano dimensioni supplementari dello spazio, oltre le tre che conosciamo. Ebbene, queste dimensioni nella teoria delle stringhe sono molto piccole, sono microscopiche, e non sappiamo però ancora determinare esattamente il valore di queste dimensioni, e gli esperimenti che avverranno agli acceleratori dovrebbero mettere o scoprire queste dimensioni supplementari in modo indiretto, oppure mettere dei limiti, diciamo, superiori alla loro grandezza. Cioè, definire che, insomma, più grandi di tanto non possono essere. Possono essere, altrimenti l'esperimento avrebbe dovuto rivelare la loro esistenza. Il vostro obiettivo più ambizioso però è spiegare la cosmologia, proprio l'origine dell'universo e il suo sviluppo. A che punto siete? Beh, questo di nuovo è uno dei problemi più difficili da un punto di vista tecnico, perché è difficile risolvere la teoria nel caso in cui si parla di un problema che dipende dal tempo. Ora, la cosmologia per definizione tratta della nascita e dell'evoluzione dell'universo, quindi si occupa di un problema non statico, però le speranze ci sono di riuscire a capire, per esempio, cosa nella teoria delle stringhe sostituisce il Big Bang della cosmologia più tradizionale, basata sulle equazioni di Einstein e sulla relatività. E ci sono varie indicazioni che lasciano pensare che il Big Bang come inizio del tempo non sia accettabile nella teoria delle stringhe, che quindi si possa addirittura chiedersi la domanda: cosa c'è stato prima del Big Bang? C'è stata qualcosa prima del Big Bang? E se la risposta è positiva, cosa c'è stato prima del Big Bang? E questo sarebbe veramente un traguardo straordinario, perché adesso i fisici, diciamo classici, non osano neppure porsela una domanda del genere. Esattamente, è una domanda che era considerata tabù fino a qualche tempo fa, grazie appunto al fatto che la teoria delle stringhe incorpora anche la meccanica quantistica, oltre a una teoria della gravità, ci permette di porci questa domanda in modo, diciamo, scientificamente ben posto. La risposta a questa domanda non avrebbe solo un interesse filosofico, ma potrebbe anche dirci qualcosa sui possibili modi di testare la teoria oggi tramite diciamo le conseguenze visibili oggigiorno di quello che può essere stato il Big Bang. Ecco, ma ci toglie una curiosità: la vostra comunità, vista dall'esterno, sembra un gruppo estremamente compatto, quasi una società di iniziati, perché si tratta di un campo estremamente difficile, richiede delle elaborazioni matematiche estremamente sofisticate, e quindi date l'idea in qualche modo di essere un gruppo di eletti. Ma siete veramente così monolitici o al vostro interno ci sono delle correnti di pensiero? Diciamo, ce ne sono effettivamente, però in un certo senso è anche vero che è una comunità abbastanza compatta. Eventualmente, se ci sono correnti di pensiero diverse, queste vengono piuttosto da altri punti di vista al di fuori della teoria delle stringhe. Per esempio, ci sono i sostenitori della loop gravity o altri tipi di approccio al problema di come riconciliare la meccanica quantistica e la relatività generale. All'interno della comunità vera e propria degli stringhisti ci sono varie direzioni di ricerca. Personalmente, diciamo, avrei preferito vederne ancora di più. Comunque non c'è un vero e proprio diciamo confronto nel senso di contrasto. Naturalmente c'è un'estrema concorrenza o competizione per arrivare ai risultati e per emergere da una parte o dall'altra, però sostanzialmente c'è una certa visione comune, diciamo, dei problemi importanti. Forse il problema maggiore è che i problemi fisicamente più rilevanti sono anche più difficili da affrontare, e quindi la tendenza nel campo è di dire: accontentiamoci di risolvere dei problemi magari meno rilevanti ma più facili da trattare. Abbiamo iniziato con lo sbarco sulla Luna e il passo così importante per la storia dell'umanità, per poi concludere con la teoria delle stringhe. Si vede che i cammini importanti della scienza erano nell'aria questa settimana. Buona serata a tutti e a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Vi ricordo che per le frasi lunari dovete mandarle a moebius@radio24.it. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.